Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Bene, stiamo trasmettendo dal Vinitaly di Verona, siamo nel padiglione della Regione Veneta, ma state tranquilli, ho solamente un bicchiere d'acqua davanti, quindi vino non ce n'è assolutamente. Allora io vi do subito il numero verde, chi volesse intervenire, perché ora parleremo di vino ovviamente a 360 gradi, quindi chi avesse qualche quesito, qualche interrogativo può intervenire. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, dicevo che oggi parleremo di dove sta andando il vino e questo è un momento importante. Vinitaly è importante anche per sapere il mercato, cosa sta succedendo nel mercato. C'è crisi, c'è stata crisi, c'era crisi, ecco, questo è un interrogativo. I prezzi cresceranno? Ovviamente no, visto che la domanda è in calo e l'offerta è molto vasta, quindi sicuramente ci saranno prezzi o stabili oppure diminuiranno. Quindi diciamo una buona notizia per i consumatori e una brutta notizia ovviamente per i produttori. Allora cominciamo questo giro con alcuni produttori. Oggi avremo diversi produttori che, appunto, con i quali discuteremo di vari argomenti. Bene, cominciamo con un produttore di Prosecco. È evidente che il Prosecco in questi anni è stato, diciamolo pure, il trionfatore, nel senso che ha veramente sfondato nei mercati internazionali, è sulla cresta dell'onda e cresce, è cresciuto davvero, davvero tanto. Ma vediamo un secondo con un produttore particolare, Giorgio Polegato dei Vini Astoria, perché qui al Vinitaly ha una grande novità, un Prosecco a 9 gradi e mezzo. Allora Polegato, perché questa decisione? Ah, diciamo che noi come Astoria chiaramente siamo produttori di Prosecco e spumante da sempre, abbiamo tutta la gamma quella tradizionale. Sentivamo l'esigenza di proporre questo spumante a 9 gradi e mezzo per cercare comunque di fare un prodotto di qualità, ma che piacesse e che dasse una novità sul mercato. Il consumatore ha la possibilità di bere questo spumante trovando tutte le caratteristiche, la piacevolezza, la fragranza, il fruttato di un prosecco, col vantaggio di bere meno alcol. Ecco, ma lei questa decisione non è forse, diciamo, dopo l'etilometro, dopo tante polemiche sul bere meno alcolico, è venuto per questo oppure invece è una, diciamo, una trovata così tecnologica questa? Ma sicuramente lo stimolo è dato dall'etilometro, perché purtroppo in questi ultimi anni ha dato segnali, ha fatto proprio calare i consumi veri e propri del vino. E con questo spumante speriamo che il consumatore si avvicini sempre di più alle bollicine senza la paura, appunto, di rischiare la patente e potendo bere un bicchiere in più rimanendo sempre dentro i limiti di legge. Allora lo ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, abbiamo con noi anche Riccardo Ricci Curbastro, che è neo presidente europeo della Federazione dei Vini di Origine Controllata e anche produttore ovviamente. Ecco Riccardo, ma cosa sta succedendo a livello comunitario dal punto di vista delle protezioni dell'origine? Insomma, i nostri vini un po' fuori dalla comunità europea ormai sono doppiati ovunque, cioè in Australia, Brunelli, Sangiovesi. Bene, ma si difende questa origine oppure no? Ma direi che c'è un atteggiamento da parte dell'Europa e un tentativo finalmente di trovare una strada di accordo a livello internazionale. È un argomento tecnico molto complesso. Per spiegarlo in due parole, noi proteggiamo le denominazioni, il resto del mondo protegge dei marchi registrati. Questo significa che mentre da noi un Franciacorta, un Prosecco sono automaticamente protetti, viceversa in questi paesi devi registrarlo singolarmente in ogni paese come marchio privato, con dei costi altissimi per i produttori e con una grande difficoltà poi ad agire nei tribunali per proteggerti dalle contraffazioni. L'Europa ha creato un unico registro delle denominazioni e sta cercando con accordi bilaterali di far sì che ogni Stato riconosca questo che è uno standard europeo, perché poi dobbiamo ricordare che le denominazioni, cioè riconoscere che un vino è più buono perché viene da un certo posto, ha certe tradizioni e ha certe caratteristiche, è una storia che viene dal mondo latino, dal mondo romano, che poi si è trasferita a tutta l'Europa. Direi in una parola che sono abbastanza ottimista, dall'altra parte forse ci vorrebbe un po' più di grinta da parte dell'Europa nell'affrontare questi accordi bilaterali, cito quello con l'Australia e quello con gli Stati Uniti, che non sono certo stato soddisfacenti per i produttori europei. Abbiamo già un radioascoltatore, Ugo dalla provincia di Salerno, buongiorno Ugo. Buongiorno Davide. Io volevo porre un quesito ai nostri ospiti, innanzitutto a lei che gira tanto, da tanti anni per Vinitaly. Ma del vino da tavola, che rappresenta circa il 90-92% di ciò che viene prodotto in Italia e probabilmente anche oltre di ciò che non viene rappresentato lì a Vinitaly, cosa mi dicono? Guardi, è una manifestazione bellissima, però vedo questa assenza che è importante. Guardi, facciamo rispondere da Ricci Curbastro, che vedo che ha dei dati sotto mano, quindi lui direttamente ci può rispondere. Intanto la produzione dei vini cosiddetti da tavola oggi è nettamente inferiore al dato citato, cioè abbiamo circa il 30% di vini a denominazione d'origine controllata e denominazione d'origine controllata e garantita, abbiamo un altro 50% di vini a indicazione geografica tipica e infine ci sono i vini da tavola, quindi sono una quota decisamente più bassa. Credo che al Vinitaly, rispondendo alla domanda, ci sia vino per tutti i gusti e per tutte le tasche. Probabilmente si vedono di più i grandi marchi, le grandi denominazioni, perché fanno più notizia, ma con pazienza, perché qui siamo veramente in tanti espositori, mi pare 4.600 produttori, si può trovare anche il cosiddetto vino da tavola. Bene, io ringrazio Giorgio Polegato e Riccardo Ricci Curbastro. E abbiamo già in linea diversi radioascoltatori. Sentiamo Renzo da Venezia. Buongiorno Renzo. Buongiorno Paolini. Mi dispiace fare un intervento che con il vino c'entra pochino. Cioè è una sorta mia di protesta per quanto riguarda il prezzo d'ingresso del Vinitaly. Cioè è mai possibile che per entrare al Vinitaly chiedono 40 euro a persona? Io lunedì prossimo purtroppo per lavoro sono lì al salone. Io e i miei due figli paghiamo, così le rendo un momentino un po' l'idea dell'esosità della richiesta di organizzatore del Vinitaly, 250.000 lire, cioè un quarto di milioni per tre ingressi. Primo, esageratissimo, non è vero? Renzo, guardi, io potrei girare questa protesta agli organizzatori, però devo dire una cosa, che alzando il prezzo è anche per evitare ovviamente che arrivino dentro al Vinitaly solamente chi vuole bere, chi vuole fare gli assaggi, e per evitare anche sbronze che negli anni passati, insomma, magari verso sera della domenica se ne sono viste, quindi il motivo del prezzo credo sia solo esclusivamente questo. Comunque ricordo sempre 800 24 00 24 per i radioascoltatori che vogliono continuare a intervenire, 349 238 6666. Sentiamo anche Vincenzo dalla provincia di Napoli. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Senta, io volevo sapere cosa si intendeva per primitivo e che differenza c'era con gli altri vini. Scusi, lei sta parlando del vitigno primitivo? Sì. È un vitigno, non è che ci fossero differenze. Il primitivo è un vitigno, quindi sicuramente credo che lei si riferisca a questo. Le differenze con gli altri vini che sono ottenuti da altri vitigni. Credo che sia questo, se ho ben capito la domanda, Vincenzo. Bene, grazie a Vincenzo. Allora, io continuiamo. Io voglio leggere un SMS, visto che ho qui due tecnici, due produttori. Buongiorno, io vorrei sapere, come mi ha detto qualcuno, i vini soprattutto di una certa consistenza alcolica vengono ormai tutti pastorizzati. Saluti da Andrea. Io vorrei girare questa domanda a Gennaro Convertini. Gennaro Convertini è un tecnico ed è, si occupa del consorzio Vini Calabria Citra. Convertini. Beh, sicuramente il grado alcolico di per sé è un conservante, per cui semmai avrebbero bisogno di pastorizzazione i vini a più bassa gradazione alcolica, ma comunque quanto non è tanto quello della gradazione alcolica il parametro che definisce la più corretta tecnica di produzione, ma quanto la categoria del vino. Nei vini DOC e GT la pastorizzazione è assolutamente vietata per legge, per cui sui vini da tavola ci potrebbero essere queste, diciamo, modalità di produzione, ma assolutamente sui vini di qualità è proibito, ma comunque fa scadere la qualità, e assolutamente. Bene, grazie Convertini. Abbiamo parlato della Calabria, poi torneremo un secondo sui vini della Calabria, ma abbiamo con noi anche Mario Poyer, che è un noto produttore trentino, Poyer Sandri alla Casa Vinicola. Perché mi dicono che, appunto, prima abbiamo sentito un prosecco a 9,5 gradi, ora mi dicono che Poyer Sandri stanno mettendo sul mercato un vino anche questo sui 9,5 gradi, allora mi sembra che sia proprio il momento di un abbassamento della gradazione, Mario. E perché questo? Perché per andare incontro alle esigenze del consumatore, per l'etilometro, per altre motivazioni? Ma sicuramente in parte per l'etilometro, ma io penso anche per un bere, come si può dire, più facile, un bere vicino alla nostra cucina mediterranea. Purtroppo vuoi un po' il clima, vuoi un po' i vitigni, le condizioni, e siamo arrivati a dei vini spesso di gradazioni molto molto alte. L'altro giorno bevevo presso un amico un Pinot Grigio Alto Atesino a 15,5 gradi. Ho avuto qualche difficoltà a berlo, fra l'altro un po' dolce, molto alcolico, con un piatto magari di pasta mediterranea, con un bel sugo, è veramente difficile. Se pensiamo invece ad alcuni vini magari di stampo tedesco a gradazione bassa, vedi Mosella, diventa molto più facile la beva. Noi viviamo in Trentino, siamo sulle Dolomiti, e a 600-700 metri abbiamo dei vigneti, dove è possibile pensare di fare un vino a bassa gradazione. Ecco che nasce questo vino, nasce da varietà ancora tedesche, Riesling e i suoi eredi, praticamente Müller-Thurgau, Kerner e Incrocio Manzoni, raccolti in momenti separati, vinificati separati e poi assemblati in un vino a bassa gradazione, leggermente con un residuo zuccherino per tamponare questa acidità piuttosto evidente. Ricordo che siamo a 700 metri di altezza, per cui dei vini abbastanza impostati sull'acidità. Bene, sentiamo Cristiana dalla provincia di Treviso. Buongiorno Cristiana. Buongiorno a lei. Allora, ritornando a una sua domanda, dove stiamo andando con i vini? Adesso c'è questa moda enorme del prosecco, stiamo allargando le zone, io vengo da Mareno di Piave, per cui conosco la zona, faccio il vito enologa, per cui dove stiamo andando? Stiamo andando verso il Sorlì, che è un vino che sostituisce il Beaujolais. Bene, benissimo, c'è questa la tendenza anche perché sicuramente il discorso che ho detto prima, credo che sia una tendenza anche, se vogliamo, verso il benessere delle persone, ma soprattutto io credo che, visto il calo dei consumi dovuto proprio all'etilometro, credo che sia anche un'esigenza di mercato. Bene, abbiamo con noi Alessandro Regoli, Wine News. Regoli, tu che ti occupi ogni giorno appunto dell'andamento dei mercati, di che cosa sta succedendo, dove stiamo andando col vino? La bassa gradazione è sicuramente una richiesta del mercato? Ah sì, è una richiesta del mercato, però insomma non penso che siano poi alla fine questi problemi, insomma, quindi noi facciamo un'analisi soprattutto da un punto di vista anche economico, quindi per esempio abbiamo anche delle statistiche che abbiamo, come dire, di chiusura 2009, no? Dove si pensava che il vino alla fine crollasse. Sono periodi sicuramente difficili, la crisi ha pesato, però non è che ha pesato probabilmente in molti settori anche di più. Quindi abbiamo un export che ha fatto più 6% in volume e meno 6% in valore, quindi abbiamo perso ad occhio e croce abbiamo perso 200 milioni di euro di valore tra 2008 e 2009, quindi questa è sicuramente pesano, le aziende sono in difficoltà, ma insomma, ripeto, è una crisi che in alcuni settori tocca il 50-60%, quindi insomma il settore ha tenuto, ecco. Sì, bisogna dire anche comunque che il prezzo medio per litro è sceso e siamo a 1,17 a litro contro 4,4 della Francia, anche se ieri qualcuno mi faceva notare che la Francia è partita da molto alto, molto più alto, quindi alto che il 50% dei francesi. Quindi sicuramente è un mercato in questo momento difficile per tutti. Ma voglio tornare un secondo, vai, sentiamo Claudio dalla provincia di Pisa. Buongiorno Claudio. Buongiorno Paolini, io telefono dalla Vigna, sono nella Vigna. Ah, fantastico, buon lavoro, eh? Ah, sì, allora, dunque, intanto volevo dire che il prezzo del biglietto dall'Expo di Bordeaux è gratuito compreso il parcheggio, cosa che non è al Vinitaly. Ma la cosa invece che volevo mettere in risalto è quella dei vini autoctoni, cioè i vini, io parlo dalle colline di Pisa, dove si faceva un buon Chianti delle colline di Pisa, e oggi invece con l'impresa del nord che è scesa giù nelle nostre colline, vediamo dei Syrah, e sono spariti praticamente i nostri vitigni autoctoni. Questo è un grande danno culturale e poi, non lo so, anche commerciale, perché questi sono signori che sfruttano al momento la situazione, poi quando non c'è più abbandonano i vigneti, infatti si vedono già vigneti abbandonati. Ecco, una difesa dell'autoctono, perché poi vede anche il Syrah, si va alla metro, si trova il Syrah a 1,90 euro, che proviene dal Cile, è imbottigliato in Italia. Bene, grazie Claudio della sua disamina. Io giro questa domanda a Gennaro Convertini, appunto del Consorzio Vini Calabria-Citra, perché vorrei sapere, cioè la Calabria ha una storia sul vino, però ultimamente si sta ripresentando sul mercato, diciamo, con una veste rinnovata, con vitigni autoctoni o anche con qualche cos'altro? Con Beh, c'è da dire che abbiamo avuto un decennio in cui i produttori erano un po' disorientati di fronte a un mercato che cercava i vini marmellata, i vini concentrati, comunque fruttati, molto profumati, e si sono dovuti per forza orientare su, diciamo, quantomeno su vitigni che migliorassero un po' i vini, la base ampelografica locale. Però c'è da dire che negli ultimi 5 anni almeno, insomma, c'è un'inversione di tendenza, fra l'altro poi prevedibile, perché poi se tutti quanti facciamo gli stessi vini è normale che non si può andare avanti. Allora la diversità dei territori insieme alla diversità dei vitigni è quello sul quale, diciamo, il punto sul quale la Calabria sta puntando molto, in particolare la provincia di Cosenza, che ha una diversità di vitigni piuttosto spinta dovuta alla storia, ma non stiamo qui ad approfondire, sta puntando molto su quello che è il Magliocco Dolce, che è un ecotipo di vitigno appunto locale, non ancora perfettamente accertato ampelograficamente, perché poi in giro è chiamato un po' con diversi sinonimi, su Verbicaro, che è una zona del Lato Tirreno Cosentino, ha chiamato Guarnaccia, sul Pollino Lacrima, sul Savuto Arvino. Però abbiamo verificato che si tratta più o meno di ecotipi, no? Dello stesso vitigno, che ha una certa varietà intravarietale, per cui variabilità intravarietale, per cui, ecco, il Magliocco è... Bene, è il simbolo, è il simbolo della Calabria. Mario, abbiamo sentito, diciamo, questo vino nuovo che non è più marmellata, che non è più barricato, che non è più con caratteristiche che nel passato sono andate molto, anche quella di frutto. Tu cosa ne pensi? Ma io sono un fan un po' di questi vini, da tanti anni, da 30 anni forse bevo Mosella, e ero un po' criticato dai colleghi, fra l'altro, perché erano vini molto acidi, piuttosto zuccherini, magari a 6-7 gradi alcol. Dopo 30 anni di mie esperienze sono passato in un momento, credo, molto attento alla gradazione bassa, a fare anch'io, visto che viviamo in montagna, a fare un vino in questa direzione. Mi sembra che i risultati siano notevoli, anche perché gli amici enologi, colleghi, di solito mi criticano in certe scelte, e questa volta li vedo tutti soddisfatti. Bene, grazie. Sentiamo Sergio da Milano. Buongiorno Sergio. Pronto Sergio? Sergio da Milano, che aveva chiamato, beh, è sparito, pazienza, vediamo poi di recuperarlo. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, per quanto riguarda gli sms. Voglio leggere un sms che è lunghissimo, però lo voglio così magari ridurre. In Italia accade che un produttore di Soave produce Soave, Amarone, Bardolino, parimenti uno di Bardolino vuol fare oltre Bardolino anche Lugana e Custoza e Valpolicella. Non è meglio concentrare energia e know-how solo sul territorio per farne emergere le specificità? Ci scrive Massimiliano da Isola della Scala. Cercheremo di dargli risposta poi. Sergio da Milano, buongiorno. Questo Sergio è già la seconda volta che appare e scompare, peccato. Bene, allora abbiamo nuovi ospiti, e abbiamo con noi Nicoletto, che è amministratore delegato Santa Margherita, quindi un gruppo internazionale. Il tema che abbiamo posto oggi è: dove sta andando il vino? Io so che voi state così studiando, verificando dove va il vino del futuro, quale sarà il vino del futuro. Ma ci puoi anticipare qualcosa? Cosa berremo nei prossimi anni? Beh, insomma, un'anticipazione delle strategie è un po' difficile da fare, Davide. È segreto, certo. Per cui ti dirò che noi stiamo studiando molto il consumatore, cercando di intercettare i nuovi trends di consumo. Stiamo facendoci aiutare per validare le nostre assunzioni anche da esperti di settore, da opinion leaders, come sai, da enologi di grande profilo, per capire se la direzione in cui stiamo andando nel progettare questi nuovi vini è quella giusta. E stiamo avendo riscontri molto interessanti, magari possiamo parlarne. Bene, allora guarda, sentiamo Renzo da Lucca, un radioascoltatore. Buongiorno Renzo. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, quello che io volevo dire era relativamente al grado alcolico dei vini. Parliamo di vini veneti rossi, no? del Friuli, nella zona di Cormon. È possibile che adesso si trovino solo più vini da 13, 5, 14 gradi? Lei dice, se uno deve bere la sera i 2 bicchieri di vino, bisogna trovare dei vini che stiano intorno ai 12 e ai 12,5 gradi. Questo è un punto. Sto parlando di vini molto buoni, tipo Livio Felluga, Marco Felluga, Ribolla, eccetera. Rossi. Bene, bene. Poi se mi permette un'altra cosa, è bene evitare di criminalizzare il vino che crea incidenti, e la colpa degli incidenti è dovuta al fatto della miscela con le droghe che sono venute a costare molto poco, e queste non entrano mai nella discussione. Bene, Renzo, no, ma abbiamo capito il suo messaggio e siamo molto d'accordo con lei. Nessuno qui ha mai criminalizzato il vino, ma io giro questa sua osservazione a Gianmaria Cesari della omonima azienda di Imola. Lei cosa ne pensa sul discorso della gradazione? Cioè, il futuro prevederà gradazioni sempre più basse? Ma io credo che siano da distinguere bene le occasioni. Sono convinto che vini importanti possano sopportare gradazioni anche più elevate. Il consumatore, per molteplici motivi, ha bisogno anche di gradazioni più basse, e quindi non sono assolutamente contro, posto che la gradazione è solamente uno degli elementi che contraddistinguono un vino. Ci possono essere vini con gradazioni, come parlava, di 12-12 gradi e mezzo, con grande personalità, grande piacevolezza e assolutamente ben accolti favorevolmente dal consumatore. Sentiamo Antonio da Vicenza. Buongiorno Antonio. Sì, buongiorno. Buongiorno Saporini. Mi dica. Senta, io lo chiamavo per una cosa un po' particolare. Sì. Volevo sentire cosa ne poteva pensare lei a quello che le dico. Io e un mio amico socio abbiamo praticamente inventato una specie di calice, bottiglia che si trasforma in bicchiere. Bene Antonio, io credo che più che presentarlo così in radio, che non si può vedere, credo che doveva prendere uno stand al Vinitaly e farla vedere al Vinitaly. Io così dal punto di vista radiofonico posso dire ben poco. Grazie Antonio da Vicenza, 800 24 00 24. Ma devo dire che anche un radioascoltatore, una dei tanti sms che sono arrivati, non so cosa risponda, perché cioè, non fanno soffiare, non ritirano patenti a quelli che escono dal Vinitaly ubriachi e fradici che vanno in autostrada. Ora non esageriamo, io credo che così l'esagerazione non serve mai, anzi i controlli ci sono, e ci sono e come. Io l'ho avuto l'ultimo dell'anno, caro radioascoltatore, quindi vuol dire che i controlli ci sono. Ma sentiamo Nicoletto sul discorso della gradazione, perché prima... Sì, io volevo tornare all'intervento del radioascoltatore che parlava di vini ad alta gradazione alcolica e dare un contributo che deriva dalla ricerca che stiamo portando avanti sul consumatore, e devo dire che quello che ci riporta l'amico radioascoltatore è proprio vero. Il consumatore, a nostro avviso del futuro, ma anche quello attuale, ci manda segnali precisi, cerca vini piacevoli, eleganti, approcciabili, facili da bere, e questo significa anche vini, diciamo, meno robusti, meno muscolosi, con una gradazione alcolica un po' più attenuata rispetto a quei vini che ti propongono oggi e che sono difficili da bere, al punto tale che magari lasci mezzo bicchiere lì sul tavolo perché il vino è un po' troppo impegnativo. Beh, devo dire che questo succedeva anche un certo periodo di tempo fa, quando magari c'erano vini troppo barricati che sapevano troppo di legno, magari trucciolati, mi permetto di dire vini trucciolati. Bene, Regoli, ho visto che prima quando... Su questo volevo dire una cosa, secondo me non bisogna generalizzare. Io penso che, come diceva prima Gianmaria, penso che bisogna segmentare, quindi nei segmenti c'è un po' tutto, quindi sicuramente in alcune fasce anche un grado inferiore può essere una cosa giusta, però insomma io penso che i grandi vini non è che possono scendere al di sotto di una determinata gradazione, quindi... Okay. Bene, un secondo, sentiamo Damiano da Milano. Buongiorno Damiano. Buongiorno, tralascio i complimenti, Davide, la sua trasmissione è veramente eccezionale e seguitissima. Volevo pregarla gentilmente, questo. Lei è velocissimo nel parlare, nell'enunciare, nel descrivere, però soprattutto con i nomi e i riferimenti, uno prende nota però non riesce a prendere tutto nota. La volevo pregare, a nome anche di tutti quanti che hanno questo problema, di tener conto di questa nostra difficoltà. Se pare? Bene. Grazie, allora le dico che abbiamo con noi l'amministratore delegato di Santa Margherita, il dottor Nicoletto, abbiamo Gianmaria Cesari, che è dell'azienda Vinicola Cesari, e abbiamo Alessandro Regoli di Wine News, che è una newsletter, è un portale che si dedica completamente al vino. Ho visto che Cesari voleva reintervenire, prego. Io dico solo una cosa, non bisogna mai dimenticarsi che il nostro è un prodotto che arriva dalla terra, quindi le stagioni, il clima influiscono molto anche nella gradazione. Ci possono essere annate dove in seguito alla pigiatura ci sono gradazioni legate all'uva difficilmente abbassabili. In passato ci sono stati problemi opposti. può capitare che in alcune annate ci siano gradazioni alcoliche più alte rispetto ad altre. Non è una, non la vedo come una grossa difficoltà, sempre cercando di allocare ad ogni tipologia di cibo il giusto vino. E quindi, come diceva anche Regoli prima, il vino, il cibo importante ha bisogno di un vino importante ha bisogno di alcol. Ma devo dire che ricevo continuamente SMS che riguardano il discorso vino, ubriachi, droghe, e molti radioascoltatori scrivono appunto assolvendo il vino e colpevolizzando le droghe. Io su questo andrei molto cauto, perché sicuramente non voglio colpevolizzare il vino, però c'è sempre una misura, c'è sempre una misura che bisogna mantenere. Io credo che la legge che c'è oggi sia giusta, non dovrebbe essere né abbassata né innalzata, quindi continuiamo in questo modo ed è evidente che bisogna stare attenti e bere con moderazione. Nicoletto, abbiamo parlato prima, abbiamo sentito vini marmellata, vini barricati, il futuro cosa ci riserva su questi vini? Io ritengo che il vino del futuro intanto debba arrivare da un territorio, debba esprimere un territorio, e poi chiaramente si debba declinare in stili, come hanno detto gli amici presenti oggi. Sui vini marmellatosi, vini molto rotondi, molto piatti, io credo che il consumatore sia anche un po' stanco e voglia qualcosa di più acido, di più vibrante e magari di più tannico rispetto ai vini marmellatosi, ai vini molto rotondi che arrivano da alcune regioni del Nuovo Mondo in particolare. Allora, abbiamo detto dove sta andando il vino, io vorrei fare anche così una battuta sul prezzo. E qual è il prezzo dove si orienterà il consumatore domani? Regoli? Allora, io su questo ho fatto una provocazione anch'io sul mio sito, perché io penso una bottiglia di vino un piccolo lusso ancora accessibile, e quindi mi sono andato a fare dei paragoni con altri prodotti che si trovano anche sugli scaffali e l'ho rapportati al litro o al chilo. È venuto fuori, per esempio, me ne ricordo soltanto uno perché la memoria in questi giorni in Italia con tante cose da fare è un po' scomparsa, il chewing gum. Il chewing gum costa 40 euro al chilogrammo. Nessuno fa questi paragoni, secondo me. È una cosa imbarazzante. Cioè, si dice una bottiglia di vino 12 euro è carissima. No, poi al di là che ci sono delle bottiglie anche da 80-90 euro, ma che chiaramente le valgano tutti quei prezzi. Quindi, secondo me, si rischia di colpevolizzare magari, no, un settore dicendo che sono cari i prezzi, e poi magari si va a comprare, che ne so, certo, delle bibite che costano pochissimo, i chewing gum, degli ovetti o... Io vorrei ricordare che c'è stata proprio una ricerca uscita, mi sembra un mesetto fa, che dava che il 27% degli italiani vorrebbe spendere sotto i 2 euro e solamente il 4-5% sopra i 15 euro, quindi questo da tenere distante. Do un minuto comunque sia a Cesari che a Nicoletto per ritornare sul prezzo. Lei cosa ne pensa? Futuro? Il futuro è abbastanza incerto, un po' come le disponibilità e l'economia sono abbastanza incerti. Io non credo che ci sarà grande spazio per vini estremamente costosi in futuro. Credo che compatibilmente con quelli che saranno anche i costi in azienda sia importante fare estremamente attenzione e valorizzare, come diceva prima Nicoletto, il vitigno, far conoscere il territorio e investire sul consumatore finale ad un prezzo comunque che deve rimanere ragionevole. Nicoletto. Ma io faccio un discorso più filosofico e dico che il prezzo deve essere come dire, remunerativo e deve sostenere il tessuto socio-economico che appartiene, a cui la filiera produttiva appartiene. Quindi io credo che un prezzo che remunera tutta la catena del valore è un prezzo equo. In questi ultimi paio d'anni abbiamo visto che alcuni attori della filiera stanno soffrendo proprio perché c'è una sperequazione nella distribuzione del valore lungo la filiera. Per cui io credo che si debba agire per cercare di equilibrare come si distribuisce il valore e in quel caso lì cominceremo a vedere dei prezzi adeguati, a seconda della tipologia di prodotti, ovviamente i diversi livelli qualitativi. Bene, io ringrazio Regolo, ringrazio Cesare, ringrazio Nicoletto. Sentiamo Fabio da Varese, un radioascoltatore. Buongiorno Fabio. Buongiorno Paolini e anche un saluto a tutti i radioascoltatori e i suoi ospiti. Io sono un piccolo grossista di vini. Secondo me il dramma del vino in Italia sa qual è? Che le persone che dovrebbero proporlo ai clienti, quindi parlo di ristoratori, enotecari e baristi purtroppo di vino non sanno quasi niente. Questo è il dramma dell'Italia. Mi permetto di dirlo per la mia esperienza di lavoro. Grazie Fabio, grazie del suo intervento, ne terremo conto nella discussione. Sentiamo Luca da Brescia, un altro radioascoltatore. Buongiorno Luca. Buongiorno, solo una richiesta. Volevo sapere se ancora è invalsa la prassi di rafforzare i vini del nord con le uve del sud. Bene, guardi, lo chiediamo, abbiamo due produttori, lo chiediamo a Sandro Cavicchioli. Buongiorno Sandro, puoi rispondere a questa domanda? Buongiorno a tutti, grazie Davide. Ma questa domanda è un po' imbarazzante, nel quanto oggi le produzioni nazionali sono tutte coperte, diciamo così, dalla denominazione di origine, se non è controllata, è un'indicazione geografica tipica. Di conseguenza questo non permette di tagliare queste uve del sud con i vini del nord. Bene, allora io vorrei andare un po' sul discorso dove sta andando il vino e soprattutto, diciamo, come prodotto, come stile. Lo voglio chiedere a Giampaolo Paglia perché ho visto ultimamente nel suo blog che ha fatto una disamina di questo, diciamo tracciando un po' anche le linee per il futuro. Sì, io ho fatto la disamina soprattutto perché il vino cambia, ma non cambia nello stesso modo nei vari posti. Io vengo adesso da una riunione con i miei importatori americani di cui si parlava di questo, e quello che noto io, per esempio, in America ancora si è legati alla visione del vino in certe fasce importanti di consumo, su vini strutturati importanti, molto legno, molti vitigni internazionali, mentre vedo già in alcune altre parti d'Europa e in Italia andare verso uno stile diverso che si potrebbe riassumere con una motto, forse, che è quello di dire: densità non fa necessariamente rima con intensità, ovvero non c'è bisogno che un vino per essere intenso sia denso. Tutti noi, anche noi che facciamo vino, credo ce ne stiamo rendendo conto, e tutti quanti noi cerchiamo bevibilità, quindi vini più facili da approcciarsi e più consumabili, e io credo che sia questo oggi il nuovo orizzonte. Bene, sentiamo Nora dalla provincia di Brescia. Buongiorno Nora. Pronto? Sì, prego, prego, parli. Volevo solo chiedere un'informazione. Volevo cercare di capire come mai i vini che arrivano da paesi lontani, tipo l'Australia o posti di questo genere, costano nei supermercati 1,80 euro, 1,90 euro, quando il tappo, l'etichetta, la bottiglia, il trasporto, la persona che chiude il cartone hanno un costo superiore. Vorrei sapere come fanno e cosa ci mettono dentro. Come un vino che costa 200 euro è veramente esagerato, perché non c'è vino che giustifichi, cioè il costo, non c'è costo che giustifichi. Sono bravissimi nel venderlo così, per carità. Quello Nora, guardi Nora, anch'io, cioè, mi chiedo molte volte anch'io di molti vini italiani che vedo un po' ovunque a 0,98 o 1 euro, come facciano, perché lo stesso problema è anche per i vini italiani. Ma abbiamo qui con noi Cavicchioli, Sandro Cavicchioli, che è un distributore di un vino importantissimo australiano che si chiama Yellowtail. Voglio chiedere a lui, secondo te com'è possibile? Yellowtail costa molto più caro, però ci sono vini della Nuova Zelanda a meno di 2 euro. Com'è questo mistero? Meno di 2 euro sono le vecchie 4.000 lire. Chiaramente il prezzo non è importante, però noi possiamo pensare che il confezionamento di una bottiglia costa sullo 0,50. Tutto il resto sono vino e distribuzione, non spetta a me, non posso giudicare in questo caso l'ascoltatrice di che vino potesse parlare, ma sui nostri scaffali ci sono esattamente vini sui 2 euro e sono dei vini abbastanza dignitosi. Sentiamo Giuseppe dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi, allora buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io volevo fare questo appunto. In Italia ormai da tanti anni i grandi enologi cercano di creare un vino fatto in laboratorio perché piaccia al palato sia femminile che maschile. Io mi lamento dal fatto che non esistono più i vini autoctoni. Cioè, perché il Nero d'Avola deve essere un vino usufruito anche per i grandi piemontesi piuttosto che per i grandi toscani, non voglio fare nome, oppure il Cannonau sardo. Cioè io dico, se nelle nostre regioni abbiamo la tipicità di prodotti autoctoni, che si faccia una buona Barbera in Piemonte, ma che lasciano fare un grande Nero d'Avola in Sicilia, che i vini toscani, i grandissimi vini blasonati toscani vengono fatti soltanto con uve toscane. Una volta chiesi ad un grande maestro dell'enologia italiana, anzi vecchia enologia, disse: ma perché lei ha fatto questo tipo di vino, un grandissimo vino che secondo me è stato grandissimo fino all'85, anzi pare 90, e lui mi dice: io faccio un vino che piace alla gente, non faccio un vino perché queste terre mi danno questo tipo di uvaggio. Io rimasi lì un po' così, un po' sorpreso, perché io credo che i vini devono essere, devono rispecchiare l'anima della provincia, della regione da cui vengono fatti. Bene, grazie Giuseppe, ho capito la sua domanda, però devo dire che io vedo tantissimi Cannonau in giro, vedo tantissimi vini del sud, Negromaro, Nero d'Avola poi non ne parliamo, io credo che ormai ci siano più etichette di Nero d'Avola in Italia che di Chianti, insomma siamo a questi livelli, quindi io credo che non sia proprio così, però questo mi permette di chiedere a Giampaolo Paglia appunto sulla sua analisi. Ecco, dal punto di vista del vitigno, cioè come vedi il futuro? Cioè vitigni autoctoni tagliati con vitigni internazionali, oppure ecco, qual è secondo lei la strada? Secondo me la strada è il vino di territorio. Il territorio non è solo il vitigno, il vitigno è una componente importante, però il territorio, o meglio terroir, è il composto dall'interazione tra vitigno, territorio fisico e storia umana che c'è nella vinificazione. È indubbio che oggi il vitigno autoctono sia tornato prepotentemente alla ribalta. Io parlavo con un vivaista importante che mi ha confermato che in Toscana ha quasi smesso di vendere barbatelle di Cabernet Merlot e sta vendendo adesso quasi solo Sangiovese, specialmente nelle zone più importanti. Quindi c'è questa, è stata recepita credo tantissimo, specialmente nelle zone tradizionali, e io credo che vedremo sempre di più questo avvenire, ed è un bene. È un bene sicuramente. Luigi dalla provincia di Bari, buongiorno Luigi. Buongiorno Paolini. Senta, io sono un piccolo contadino, produco un centinaio di quintali circa annui, e che vorrei chiedere ai tuoi ospiti, sì, che magari sotto un certo aspetto tirano le file del discorso produzione di vino in Italia, che ne pensano di un piccolo coltivatore che vende svende l'uva a 13 euro al quintale? 13 Bene. Euro al quintale. Luigi, mi fa piacere perché stamattina ricevo telefonate da chi è in cantina, di chi è nei campi, e quindi questo vuol dire che sempre di più stiamo popolarizzando, mi fa estremamente piacere. Però giro la domanda a Cavicchioli. Questo è un problema comune su tutta la penisola, l'eccedenza di produzione porta a questi eccessi, cioè i 13 euro al quintale dell'uva sono veramente pochi, non coprono sicuramente neanche i costi di produzione. Il reddito della filiera, che la filiera non si sostenga oggi in Italia con il vino, tutta la filiera non riesca a sostenersi, è una realtà ed è un nostro problema. Ecco. Sentiamo Andrea dalla provincia di Milano, buongiorno Andrea. Pronto Andrea? Sì, prego. Pronto? Andrea, parli. Io sento bassissimo la vostra voce. Lei parli comunque, ci racconti. Ok, d'accordo, allora volevo semplicemente dire, io sono un consumatore direi piuttosto buono nei termini, consumo circa 150 bottiglie di vino l'anno e il prezzo medio di acquisto per quanto riguarda i miei consumi tipici è dai 15 ai 18 euro, ma questo vuol dire la bottiglia da 12 ma anche la bottiglia da 30-35 euro, e direi che è un prezzo normale, corretto. Difficilmente ho trovato vino al di sotto di questa media che fosse anche un vino soddisfacente in termini di qualità del prodotto, quindi non trovo per nulla scandaloso un valore medio come quello detto dal suo ospite prima, mi scuso ma non ricordo il nome, ecco, direi che consumare al di sotto di quella cifra, prodotti al di sotto di quella cifra molto spesso si incappa in prodotti un po' artificiali oppure questi prodotti dalla facile beva che sono stati i vini californiani o i vini neozelandesi molto barricati, molto trucciolati giustamente, quindi non trovo nulla di scandaloso in prodotti. Io sono abbastanza d'accordo con lei, sentiamo Paglia. Ma sono d'accordo anch'io, nel senso che oltre al di sotto di un certo prezzo è chiaro che il valore del vino in sé è bassissimo, perché se si parla di prezzi molto bassi incide tutto il resto, quello che fa di contorno al vino, quindi su vini di prezzi diciamo sotto i 4-5 euro è chiaro che quando hai tolto l'IVA, il ricarico del supermercato, il ricarico di chi l'ha venduto, la bottiglia, il tappo, il trasporto, di vino ne rimane ben poco di valore. Basta salire anche di poco da quella soglia lì, dove appunto il resto alla fine come costo rimane uguale, ma quello che si paga di più di valore è il vino. Quindi basta anche 2-3 euro a volte in più per avere un prodotto radicalmente diverso. Si trovano dei vini, degli eccellenti vini di vigneto, di territorio, sulla fascia dei 7-8 euro. Bene, sentiamo Cristian da Treviso. Buongiorno Cristian. Buongiorno Paolo e buongiorno Davide, scusa. Dimmi. Io sono Cristian, sono un presidente di un'associazione enoculturale. Quello che volevo dire riguardo al dove sta andando il mondo del vino, senz'altro bisogna fondamentalmente continuare a fare cultura sul vino. Poi sarà il consumatore che con una buona cultura e non una cultura modaiola riesce a capire realmente quale vino comprarsi, quale vino consumare. Ovviamente, bene, grazie. C'è chi può consumare un vino da 3 euro e chi lo può anche spenderne 15. Responsabilizzare. Velocissimo, Cavicchioli, tu hai lanciato un vino in Spagna addirittura, l'Ambrusco Amabile, che ha grande successo. È una vecchia tradizione della zona dell'Ambrusco, questo Amabile. Certamente, un vino di territorio fatto tutto con... È una DOC Sorbara Amabile fatta tutta con le uve di Modena. Ed è un prodotto che ha avuto un notevole successo per il colore rosato, che in questo momento ha un certo appeal, e diciamo che gli spagnoli hanno scoperto i nostri rossi frizzanti. Bene, abbiamo chiuso questo lungo giro dal Vinitaly di Verona, nel padiglione della regione Veneto. Io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 12.15, ogni giorno alle 11.05, 23.05 con la pillola, e vi auguro tutti un buon weekend da Davide Paolini.